Un buon ascolto a tutti gli amici che ci ascoltano sui 105.9 della modulazione di frequenza e anche naturalmente a quelli che avranno modo di vederci nei prossimi giorni su www.radioernica.com. Chi già ci sta vedendo vede che nei nostri studi c'è Francesco Scalia, l'assessore Francesco Scalia, già presidente della provincia di Frosinone. Un appuntamento che avevamo pubblicizzato nei giorni scorsi anche per fare un po' il punto della situazione a fine anno sull'attività amministrativa che l'assessore ha portato avanti in regione e naturalmente anche per farci gli auguri di fine anno e gli auguri di un buon inizio anno. Il nuovo anno che naturalmente sarà un anno molto impegnativo perché le elezioni regionali sono imminente, si parla di accordi, avremo modo anche in questo contesto di discutere di questo, si parla di accordi politici che riguardano le regioni che sono praticamente chiamate al rinnovo, la pressoché totalità, con esclusione di alcune regioni autonome, la pressoché totalità delle regioni che praticamente andranno prossimamente al voto. Questa mattina c'è stato un articolo nella pagina nazionale, diversi articoli, uno in particolare, quello di Repubblica, che avanzava l'ipotesi che l'accordo con l'UDC sarebbe cosa fatta ma per il centrodestra. Dunque, al mio fianco Francesco Scalia, Giuseppe Russo, ciao Giuseppe. Buonasera, auguri a tutti. Bene, un saluto a tutti voi e naturalmente vi ricordo anche che potete partecipare in diretta a questa trasmissione, alcuni si sono già prenotati, quindi avremo modo di rintracciare queste persone e metterci in contatto con chi aveva già prenotato alcune domande. Chi invece vuole intervenire lo può fare in diretta, visto che siamo in diretta, allo 0775 726546. Vuoi iniziare tu, Giuseppe? Sì, innanzitutto benvenuto qui nei nostri studi, Francesco, è un piacere averti qui con noi. Hai già avuto occasione di incontrarci, però per il momento per via telefonica. Dunque, Francesco, iniziamo però subito con le problematiche legate al territorio. Siamo ad Anagni, ti abbiamo visto molto presente ad Anagni, soprattutto per una vicenda drammatica, quella della Videocon. Hai seguito tu, sia in qualità di assessore regionale, sia precedentemente come presidente della provincia, la vicenda passo passo. Ecco, ti chiediamo a questo punto le cose come stanno e quali sono le prospettive per questo stabilimento anagnino e per le centinaia di lavoratori della Videocon. Sì, la novità positiva che è emersa nell'ultima riunione tenuta al Ministero è che è stato fissato un calendario tassativo. Entro il 15 gennaio vanno presentate le proposte vincolanti da parte dei gruppi che si sono dichiarati disponibili, interessati a rilevare il sito industriale e quindi ad attuare la riconversione che gli indiani non hanno attuata, e quindi poi entro la fine di febbraio va chiusa la trattativa con una proroga di un mese di cassa integrazione in deroga. Quindi quel che si paventava, insomma, è che con nuove proposte, con nuove manifestazioni di interesse, si tirasse alla lunga con il sospetto che la proprietà, insomma, andasse di fatto a dismettere l'attività per poter completare quello che ho definito da subito come una vera e propria speculazione, è stato in un certo senso bloccato. Entro il 15 gennaio le proposte devono essere presentate, i progetti, ce n'erano tre, se ne sono aggiunti altri due allo Stato, ma debbono essere presentate le proposte che sono vincolanti per il proponente, corredate ovviamente di progetto industriale, che possano essere valutate non soltanto dalla proprietà ma dal Ministero e dal tavolo, insomma, gli appartenenti al tavolo, quindi la Regione, le forze sociali, i sindacati, e dopodiché, insomma, si individuerà il progetto che sarà ritenuto maggiormente in grado di garantire i livelli occupazionali e un futuro industriale a quel sito, lì è chiaro sarà necessario, è la proprietà che comunque decide, insomma non è che può essere imposta una soluzione alla proprietà, ma è chiaro che insomma la proprietà non potrà decidere di testa propria, dovrà tener conto delle indicazioni e delle, che vengono dal Ministero, dalla Regione, da coloro che peraltro hanno messo risorse importanti per consentire una riconversione industriale vera di quel sito. Allora, abbiamo credo già le prime telefonate. Allora, Aurelio, che si trova in questo momento dall'altra parte della redazione, vediamo la prima telefonata. Prego, ti passo la linea. Pronto? Sì, eccoci, siamo in onda. Senta, per quanto concerne la domanda dell'onorevole Scalia, è possibile? Prego. Sì, come no. L'ascoltiamo forte e chiaro. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, mi dica. Sente solo il ritorno di voce. Sì, prego, può andare in onda, tranquillamente. Niente, io chiedevo solo questo. È una cosa molto, essendo un cittadino da Nagni, e ne sono orgoglioso di essere sociaro, chiedevo all'onorevole se la fusione con l'UDC c'è e quando potrebbe avvenire, uno. Secondo, avendo più volte notata la presenza dell'onorevole in mezzo alle persone che chiedono un degno posto di lavoro, è possibile una pressione un po' più accentuata e dare una risposta a queste persone per trovare un posto di lavoro e mantenere la famiglia, perché i sociali si trovano un po' a disagio. Questa situazione c'è e potrebbe dare manforte a questi ragazzi. Bene, la ringraziamo. Allora, accordo politico con l'UDC, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, sì o no, visto le notizie anche che sono comparse sul giornale, e problematiche del lavoro ne abbiamo già parlato poc'anzi, ma l'ascoltatore chiedeva qualcosa di più preciso. Prego. Beh, con l'UDC, insomma, oggi su Repubblica Online, quindi immagino uscirà domani, su Repubblica si parla di un probabile quasi concluso accordo tra l'UDC e il centrodestra. Io ho notizie diverse, ma insomma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Io insomma, faccio un ragionamento, poi è chiaro, insomma, non dipende da noi. Mi sembra difficile che l'UDC, dopo aver Casini, dopo aver prefigurato addirittura un'alleanza di tutti contro Berlusconi per tentare di arginare questa deriva insomma, che si è attenuata dopo l'incidente di Milano, ma insomma che comunque portava a far saltare tutti gli equilibri e le garanzie anche di carattere costituzionale, poi faccia vincere Berlusconi, perché di fatto la Polverini, per quanto insomma personaggio molto vicino a Fini, è comunque candidato al centrodestra. Se vince nel Lazio vince Berlusconi, non è che vince Fini faccia vincere Berlusconi nel Lazio, compromettendo credo un lavoro politico anche intelligente che l'UDC e Casini hanno fatto finora. Mi sembra difficile, però ecco, insomma, staremo a vedere, ormai si tratta di questione di ore, di giorni, staremo a vedere come si orienterà l'UDC all'esito della candidatura che anche uscirà dal centrosinistra. Ad oggi c'è il solo candidato del centrodestra, il centrosinistra sta ancora valutando la candidatura migliore, quindi quando uscirà anche l'UDC avrà chiaro quali sono le forze in campo e quindi deciderà. Circa l'impegno, noi insomma abbiamo vissuto e viviamo in provincia una situazione difficile da tempo, soprattutto sul fronte dell'industria, l'industria matura, l'industria che è venuta qui, attratta dagli incentivi dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, ha fatto, è il caso Videocolor, è il caso più emblematico, ha fatto maturare le proprie produzioni, ha assorbito dal territorio tutto quanto poteva assorbire senza innovare, senza investire, rinconvertendo la propria attività, e poi Videocolor, il gruppo Thomson, ha di fatto pagato un altro gruppo dando i 280 milioni di euro per di fatto io spero non fosse nelle intenzioni, ma insomma poi le intenzioni che ha manifestato la proprietà indiana sembravano quelle, chiudere il sito e così attuare una vera e propria speculazione. Per fortuna al momento non c'è riuscita, non ci deve riuscire, e così in altre realtà della provincia. E il nostro impegno è stato totale, nei limiti delle nostre possibilità e capacità. Insomma, sono questioni che purtroppo non si risolvono a livello locale. Anche qui Vito Conna ne è stata un esempio evidente. Sono questioni che si risolvono a livello di politica industriale del governo. Vito Conna ha fatto un accordo di programma con il governo nazionale. Si tratta di un sito produttivo importante con 1.400 dipendenti. Insomma, son cose che non possiamo. Quello che possiamo fare noi a livello locale è contrastare azioni di mera speculazione come è avvenuto e favorire altri processi. Nel caso di Videocon l'abbiamo fatto con tutte le nostre forze, sia con scioperi, sciopero della fame, denuncia alla Procura della Repubblica. Io credo che, insomma, rispetto all'ipotesi che la stessa proprietà aveva dichiarato al Ministero, chiusura di fatto o assemblaggio per poche centinaia di addetti, che voleva dire anch'essa chiusura, insomma il quadro è cambiato, sia pure con tante difficoltà, la necessità di un nuovo piano industriale, il dover valutare le proposte che venivano, l'avere oggi davanti a noi 2 mesi entro il quale una trattativa va chiusa e una prospettiva industriale va assicurata a questo sito è conseguenza di un'azione che non solo ovviamente la politica del territorio, le istituzioni, ma anche il sindacato, i lavoratori stessi, i loro scioperi, la loro occupazione, il fatto di portare attenzione questa vicenda, questo dramma ha provocato e consentito. Mi pare che abbiamo ancora una telefonata in linea. Sì. Pronto? Allora, sono 17:48 minuti primi, ancora un ascoltatore di Radio Radica in linea per una domanda all'assessore Scalia. Prego. Pronto? Sì, guarda, sono un ascoltatore e avrei una curiosità, grazie anche alla redazione di Radio Termica che ci dà questa opportunità, un ascoltatore di Anagni. Lei, assessore, non ha mai fatto un mistero, insomma, della sua insomma passione, chiamiamola così, per quanto riguarda il progetto dell'aeroporto di Frosinone. Io vorrei sapere da lei, diciamo adesso che è ancora tutto da decidere sostanzialmente, cosa ci potrebbe essere per quanto riguarda prima di tutto l'impatto ambientale e poi per quanto riguarda il fronte occupazionale, che potrebbe non andare secondo le previsioni che più volte non solo lei, ma insomma anche altri autori dell'aeroporto hanno portato come invece diciamo note positive per lo sviluppo del nostro territorio. Insomma, è davvero l'unica possibilità di sviluppo che abbiamo, questa dell'aeroporto. La ringrazio. No, grazie a lei. L'impatto ambientale, questo è oggetto di una valutazione, il procedimento che si sta attuando adesso è la valutazione ambientale strategica, che è una procedura volta appunto a verificare l'impatto ambientale sul territorio di questa infrastruttura. Poi sarà necessaria la valutazione di impatto ambientale che riguarda il progetto specifico. La valutazione di impatto ambientale strategica valuta anche il bilancio ambientale, cioè il rapporto tra l'impatto negativo e il bilancio positivo anche in termini ambientali che l'opera produrrebbe. Insomma, faccio un esempio. È chiaro che un aeroporto ha un impatto, sulla qualità dell'aria, perché ci sono emissioni da parte degli aerei che provocano ovviamente inquinamento, come lo provocano le automobili, come lo provocano le emissioni industriali. Ora, la valutazione che va fatta è il rapporto tra il peggioramento della qualità dell'aria in conseguenza di quest'opera e il miglioramento della qualità dell'aria stessa in conseguenza di quest'opera. L'aeroporto consente di aumentare e di potenziare migliorare l'uso di infrastrutture già esistenti che non devono essere realizzate, la ferrovia, il trasporto ferroviario particolarmente, aeroporto vuol dire sostenere, finanziare un progetto che porta allo spostamento della stazione ferroviaria di Frosinone all'esterno della città, consente di utilizzare l'ultimo tratto dell'alta velocità con navette dedicate e quindi incentivare l'uso, il trasferimento del trasporto dalla gomma e quindi al trasporto su ferro. Questo porta ad un miglioramento, ad una riduzione nel contesto, nell'area, una riduzione delle emissioni dovute al traffico autoveicolare e quindi va misurato il bilanciamento, il rapporto che c'è tra l'aumento delle emissioni in un aeroporto, in un piccolo aeroporto, quale quello che vogliamo fare, sono sostanzialmente quasi insignificanti, limitate, e la riduzione delle emissioni che viene determinata dalla riduzione dell'uso dell'automobile. Tutto questo è oggetto di una valutazione molto tecnica, molto approfondita, che viene fatta a livello, insomma, l'ente che l'ha promossa è la Regione Lazio, ovviamente in quanto competente a realizzare questa infrastruttura, ma coinvolge tutte le amministrazioni competenti, il Ministero dell'Ambiente, le associazioni anche ambientaliste, insomma c'è una, ed è l'oggetto della valutazione ambientale strategica che procede di pari passo alla conferenza dei servizi che dovrà portare all'autorizzazione dell'infrastruttura. Quanto all'impatto occupazionale, c'è un impatto diretto che è quello che l'aeroporto realizza, l'aeroporto è un'impresa che avrà degli occupati diretti e indiretti, insomma le stime sono ovviamente stime medie, parlano di un'occupazione di circa 1000 addetti diretti ogni milione di passeggeri e dai 3 ai 5000 addetti indiretti nell'indotto sempre ogni milione di passeggeri, quindi per un aeroporto che si attesta come vogliamo noi, come sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo di passeggeri, fate voi il calcolo, insomma si arriva ad una creazione di occupazione comunque di migliaia di addetti. Ma l'effetto benefico dal punto di vista della creazione dell'occupazione, dal punto di vista di stimolo all'economia di un'opera di questo tipo, non è solo determinato dall'occupazione diretta che determina, ma è determinato dal fatto che rappresenta uno strumento, una infrastruttura che consente di potenziare altre vocazioni che la nostra economia ha. L'esempio che facevo io prima del miglioramento dell'uso di infrastrutture già esistenti, che non debbono essere realizzate, perché quando si parla e si pensa all'impatto ambientale si deve pensare anche non soltanto alle emissioni, ma si deve pensare anche all'occupazione del suolo che viene determinata con la realizzazione in opera. Nel nostro caso noi abbiamo già tutte le infrastrutture di collegamento con la città di Roma, abbiamo l'autostrada, abbiamo due caselli ormai, Ferentino e Frosinone, abbiamo la ferrovia ad alta velocità e la ferrovia tradizionale, non dobbiamo realizzare quest'opera che realizzando l'aeroporto come si deve anche fare a Viterbo si debbono comunque realizzare. Viterbo costa circa 1 miliardo di euro perché si debbono realizzare anche le infrastrutture di collegamento che adesso mancano. Nel nostro caso l'aeroporto ci consente, attraendo milioni di passeggeri ogni anno, ci consente di impegnare meglio e di sfruttare meglio infrastrutture già esistenti e ci consente quindi di migliorare il collegamento alla città destinazione. L'aeroporto ci consente in buona sostanza di fare un collegamento ferroviario con Roma in meno di mezz'ora, utilizzando infrastrutture che già ci sono, utilizzando l'ultima tratta ad alta velocità, immettendo navette dedicate. Insomma, è già verificato che questo ci consentirebbe di collegare Frosinone con Roma in 25 minuti. Questo lo possiamo fare perché abbiamo il traffico che paga un servizio del genere, un traffico che è determinato dai milioni di passeggeri che l'aeroporto realizza. Un servizio che però non viene limitato ai passeggeri, ma a disposizione dell'intera comunità. Quindi avremo di fatto la provincia di Frosinone a meno di mezz'ora, il nord della provincia di Frosinone a meno di mezz'ora dalla città di Roma. Questo trasforma la nostra economia, insomma potenzia una vocazione che il nostro territorio ha, un'economia di servizi di qualità. Avremmo i nostri esercizi commerciali, i nostri alberghi, le nostre realtà produttive a meno di mezz'ora dal centro di Roma, e questo avrà una conseguenza ed un ritorno straordinario per la nostra economia e per la nostra occupazione. Quanto è avvenuto insomma, per l'area dei Castelli Romani, per esempio, quando ci si è avvicinata con l'arrivo della metropolitana Lonagnina. La metropolitana di fatto un'area che sta fuori Roma con servizi che si trova a poche decine di minuti dal centro di Roma per l'utilizzo di quella infrastruttura, quella metropolitana che è arrivata lì, e questo ha portato a un'esplosione dell'economia in quell'area che è anche misurabile con l'aumento del costo delle abitazioni. Perché? Perché insomma si tratta di località belle con servizi che si trovano a poche decine di minuti dal centro di una città che scoppia come Roma, e questo si potrebbe verificare anche nella provincia di Frosinone con tutto quel che ne consegue come stimolo, come miglioramento della nostra economia. Bene, vorrei ricordare il numero telefonico, lo 0775 726 546, anche se sembra che non ce ne sia bisogno. No, credo che ci sia anche un'altra telefonata. Sì, forse. Mi pare che c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, eccoci. Pronto? Buonasera, buonasera Presidente Scalia. Dunque, io sono un'elettrice del Partito Democratico, in particolare sono anche una sua elettrice, e mi sono posto un problema, cioè da un po' di tempo troppo si sente parlare di politica per problemi non legati ai problemi reali del paese, ma per altre vicende. Mi riferisco in particolar modo alla vicenda del governatore Marrazzo, che mi ha colpito per la vastità che è stata data a quello che è accaduto ed il modo con il quale è stata portata avanti tutta la situazione dai mass media. Ho apprezzato il fatto che il governatore si sia dimesso, cosa che ci si aspetterebbe che facessero tanti altri amministratori della cosa pubblica a livello nazionale e a livello periferico. E quanto pensa che in questo particolare momento difficile per la nostra nazione a livello economico e per i problemi sociali che ci sono possa incidere quello che è accaduto nelle prossime elezioni regionali? Beh, questa domanda era da aspettarselo naturalmente. Ovviamente è una vicenda che ha insomma, toccato e sconvolto tutti noi, però io ho sentito male, ho sentito a tratti le considerazioni che la nostra amica faceva, e ritengo aver capito di un suo giudizio negativo sull'uso che è stato fatto di questa vicenda, non sulla vicenda in sé, e che io condivido perfettamente se è così, nel senso che Marrazzo non è che ha sbagliato per la sua vicenda personale, insomma ognuno di noi ha le proprie convinzioni etiche e morali, ma l'etica appunto e la morale privata appartiene a ciascuno di noi, e rispetto ai suoi comportamenti credo nessuno di noi abbia il diritto di giudicare. Marrazzo ha sbagliato perché da uomo pubblico, da uomo responsabile del governo di un ente importante come la regione, si è messo in condizione di essere ricattato. È lì che insomma la sua vicenda personale ha assunto un rilievo pubblico, un rilievo politico. Però Marrazzo, proprio per questo, ne ha tratte tutte le conseguenze rassegnando le proprie dimissioni, quindi separando la propria vicenda personale dalla vicenda pubblica. Da quel momento quella doveva rimanere una vicenda personale che non doveva avere più una valutazione di carattere politico, invece è stata ovviamente oggetto dell'attenzione esasperata che insomma tutti noi abbiamo visto. Marrazzo con le sue dimissioni ha chiuso quel capitolo. Altri, mi riferisco al Presidente del Consiglio, proprio per le stesse, cioè gli stessi che hanno poi gridato allo scandalo per la vicenda Marrazzo sono gli stessi che hanno difeso i comportamenti privati del Presidente del Consiglio. Come se quei comportamenti sono sicuramente comportamenti privati, che se rimangono comportamenti privati sono problema di chi li pratica. Se sono comportamenti privati di chi è Presidente del Consiglio, hanno un rilievo pubblico, hanno una rilevanza pubblica nel momento in cui non solo danno un messaggio che i comportamenti di un uomo che ha quelle responsabilità, ma pongono il Presidente del Consiglio, cioè il capo del governo, in una nella condizione di essere ricattato. Ora, Marrazzo ne ha tratto le sue competenze, conseguenza assumendosi la responsabilità di quel che aveva fatto e separando la sua vicenda dalle responsabilità di Presidente della Regione Lazio. Il Presidente del Consiglio non ha fatto altrettanto. Io credo che per rispondere alla sua domanda, io credo che tutto questo sia stato compreso dai cittadini. Pagnoncelli, nell'illustrare alla Giunta regionale, come mensilmente fa, la rilevazione sul giudizio dei cittadini del Lazio sull'operato della Giunta, sull'operato della Regione, subito dopo la vicenda Marrazzo, dopo le dimissioni del Presidente Marrazzo, ha rilevato come i cittadini avessero di fatto archiviato questa vicenda, avessero anzi apprezzato il comportamento che Marrazzo ha avuto in conseguenza di questa vicenda e hanno espresso un giudizio sull'operato, non sul comportamento del Presidente Marrazzo, sull'operato della Giunta regionale nel suo complesso, peraltro un giudizio molto lusinghiero, apprezzato dal 61% della popolazione del Lazio, per cui questa vicenda non dovrebbe e non, secondo me non deve avere un riflesso sulle prossime elezioni regionali, è un condizionamento delle prossime elezioni regionali. Chiaro, ci mette in difficoltà, non fosse altro perché ancora non abbiamo il candidato. Non fosse avvenuto quel che è avvenuto, oggi saremmo con Marrazzo candidato uscente fortissimo dopo aver governato per 5 anni, sicuramente con l'accordo con l'UDC, perché di fatto l'accordo con l'UDC già c'era con Marrazzo, l'UDC soprattutto nell'ultimo anno di fatto si è distinto dal resto dell'opposizione sul piano sanitario, è rimasta in aula mentre il resto dell'opposizione non ha partecipato alla votazione, alla discussione, ha fatto capire che l'intesa c'era e quindi ci avviavamo verso, io credo, una giusta riconferma. Oggi ci troviamo in questa difficoltà per il fatto che dobbiamo comunque esprimere un nuovo candidato ed è questa la difficoltà che viviamo per il precipitare della vicenda Marrazzo, le sue dimissioni. Sul resto non credo che queste avranno una grossa influenza. Allora, Francesco, ci stanno ascoltando dalla redazione di Suoceria Oggi di Anagni, mi dicono che è in linea una delle due giornaliste. Abbiamo la coordinatrice di Suoceria Oggi, una delle firme più prestigiose della provincia di Frosinone, Daniela Pesoli. Prego Daniela, ti ascoltiamo. Sì, ciao, buonasera Daniela. A voi, buonasera Scalia, tanti auguri di buon anno naturalmente. Io volevo fare una domanda politica che riguarda il Partito Democratico e in particolare vorrei soffermarmi sulla difficoltà che ha il Partito Democratico a trovare una sua identità e anche un leader, la verità, negli ultimi tempi se ne sono succeduti diversi, emblematico è il caso di Veltroni. Ecco, volevo chiedere a Scalia se queste difficoltà dipendono dalle eccessive anime presenti in questo partito oppure nella difficoltà di doversi confrontare con un modo di fare politica notevolmente cambiato negli ultimi tempi con la presenza di Berlusconi. Insomma, il centrodestra va meglio perché ha un leader che sta in porte a differenza del centrosinistra? Grazie Daniela, domanda bella tosta. Prima di dare una risposta a Daniela, Francesco, abbiamo un nostro cronista, nonché opinionista della nostra radio, Francesco Sordo, che è qui, lo chiamo anche lui, credo che anche lui abbia qualche domanda da fare. Tra l'altro lui realizza per Radio Ernica una trasmissione sul mondo degli stranieri, una trasmissione molto seguita e molto apprezzata. Francesco, allora, prima di passare la parola di nuovo a Francesco Scalia e poi di nuovo a Giuseppe per altre domande, prego. Prego, adesso ti ascoltiamo. Ok, vorrei tornare in provincia di Frosinone dopo la domanda su Veltroni e Berlusconi che Daniela da Ciociaria oggi ci ha proposto. E, stiamo vedendo i primi atti e i primi passi della maggioranza di centrodestra alla provincia di Frosinone. A parte qualche, diciamo, peccato veniale, chiamiamolo così, forse anche di inesperienza da parte di qualcuno degli assessori, mettiamola su questo piano, si è poi notato una disgregazione sostanzialmente a un mese dalla vittoria elettorale, a un mese e mezzo dalla vittoria elettorale, una disgregazione che poi va sui giornali, che è evidente. È solo inesperienza oppure secondo te, che insomma vieni da un'esperienza lunga alla presidenza della provincia di Frosinone, c'era un problema politico già durante la campagna elettorale, nella fase di formazione di questo cartello di centrodestra che ha portato poi il presidente Iannarilli alla guida della provincia? Allora, due risposte, Francesco, brevissimo, inizio, perché come senti arrivano altre telefonate. Inizio dalla seconda. In parte probabilmente inesperienza, e l'inesperienza si supera con l'esperienza, e quindi faranno esperienza e a questa parte c'è rimedio. In parte è un modo, è conseguenza di un modo di concepire la politica, è che è campagna elettorale permanente sia all'esterno nei confronti dell'avversario istituzionale, diciamo così, del centro-sinistra, sia al loro interno, cioè detto in parole più brutali è una guerra tra bande, e che si bloccano tra di loro, si concepiscono la politica come un attacco forsennato nei nostri confronti, di fatto insomma facendo le pulci a 10 anni di amministrazione, andando a cercare i peli nell'uovo per creare difficoltà, per mandare tutta la procura, la Corte dei Conti, loro che non dovrebbero essere giustizialisti, e tra di loro bloccandosi a vicenda, cioè non hanno il senso della coalizione, non hanno il senso anche della responsabilità che hanno, la responsabilità del governo del territorio e della cosa pubblica, e di fatto hanno bloccato tutto. Insomma, gli esempi possono essere i più diversi, dalla scuola di formazione che rischia di perdere milioni di euro di finanziamenti perché non fanno formazione, non fa l'agenzia, non funziona, perderanno adesso 7 milioni di finanziamento sull'Udis di Cassino perché non hanno bloccato la gara, non hanno consegnato i lavori entro il 31 dicembre come devono fare. Noi ci abbiamo messo 17 mesi a realizzare una scuola a Cassino, un liceo scientifico, allora non sono bastati 6 mesi per fare il trasferimento, insomma, o l'assistenza specialistica alla scuola, hanno bloccato la gara e quest'anno non ci sarà l'assistenza specialistica alle scuole, e quindi la possibilità per i portatori di handicap, per i disabili, di poter frequentare le scuole della provincia. Insomma, se lo dicono tra di loro, non c'è bisogno, non c'è necessità che lo evidenziamo noi, lo dicono tra di loro che non riescono ad andare avanti, non riescono a governare. Purtroppo non è solo inesperienza, questo è il dato, perché l'inesperienza si supera poi praticando e mettendoci di buona lena, non è solo quello, c'è un vizio a monte che è difficilmente colmabile. E quanto alla domanda di Daniela, Partito Democratico, io credo non debba affermare un'identità, perché non credo non debba essere un partito identitario, un partito che ambisce a rappresentare, che rappresenta oggi un terzo dell'elettorato e ambisce a rappresentarne di più, che tendenzialmente maggioritario, comunque perno di una coalizione, perno principale di una delle due coalizioni che si contendono alla guida del governo del paese, non deve essere un partito identitario. I partiti identitari sono partiti elitari, insomma, che soddisfano insomma le ambizioni anche culturali di porzione dell'elettorato, ma che non danno una risposta complessiva di governo. è un partito che deve mettere insieme le istanze riformatrici del paese, da quelle di matrice cattolica a quelle di matrice socialista, laica, liberale, e quindi è chiaro che insomma ha una gestazione difficile, però proprio per questo è una prospettiva avvincente. Dall'altra parte è tutto più facile perché lì comanda uno e i mezzi per farlo, ma nel momento in cui si allenta un po' la sua presa c'è la disgregazione più totale, dalle guerre per bande, che come sono a livello locale poi lo sono anche a livello nazionale, tra una parte di Alleanza Nazionale e la Lega, insomma le cose che si dicono i ricatti che praticano bloccando misure del governo non sono neanche paragonabili alle cose che ci siamo detti noi quando abbiamo tornato insieme, che sono state pur gravi. Bene, allora un'altra telefonata e poi Giuseppe Russo. Sì, eccoci, ancora in diretta con l'assessore Francesco Scalia. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sono Monica Cesaretti da Cesaria Oggi. Volevo chiedere all'assessore Scalia una domanda relativa alla questione della sanità, che come ovvio insomma è uno dei settori più difficili da gestire. A breve è attesa l'apertura del nuovo ospedale di Frosinone, ma il presidente Marrazzo prima, la regione avevano preso degli impegni anche per il territorio della provincia di Frosinone, in particolare mi riferisco all'apertura del nuovo ospedale di Anagni. Che fine hanno fatto questi impegni, quali sono le prospettive della sanità in provincia di Frosinone? Bene, Monica si riferisce naturalmente a quella manifestazione che si tenne presso il convitto Principe Piemonte, la presenza di Marrazzo, dove furono presi impegni ben precisi anche sulla realizzazione del nuovo nosocomio nella nostra città. Giuseppe, sì. Vuoi fare anche tu una domanda? Prego. Sì, bene, usciamo anche dal problema sanità, io ritornerei al problema, alla politica provinciale che abbiamo affrontato prima, legato a questo diciamo bailam che si sta verificando anche all'interno della coalizione di centrodestra. C'è un problema legato a questo, che è quello della vertenza dei lavoratori della multiservizi, anche quello dei lavoratori che sono impegnati nell'agenzia nel settore della formazione, nell'agenzia della formazione. Ecco, io vorrei che ti soffermassi anche su questo, anche perché dalla tua segreteria è stato diramato un comunicato di risposta anche ad una lettera aperta diffusa alla stampa dei lavoratori della multiservizi, che in un certo senso un po' sparavano a zero su tutti, anche su di te. Bene, allora sanità, questioni sanità, impegni su Anagni verranno mantenuti come sono stati mantenuti gli impegni presi in questi anni, con le grandi difficoltà che la regione ha dovuto vivere ed affrontare proprio in questo settore, difficoltà che derivano dal fatto che insomma la regione Lazio ha trovato sulla sanità un buco di quasi 11 miliardi di euro, di più di 10 miliardi di euro, cioè la finanziaria nazionale di quest'anno è stata di 8 miliardi, insomma, dell'intero paese. E il debito che ha dovuto fronteggiare la Regione Lazio è di oltre 10 miliardi di euro. Insomma, i bilanci, le ASL non approvavano i propri bilanci da anni, insomma con il primo anno della giunta di centrosinistra si sono dovuti approvare i bilanci di 2, 3, 4 anni precedenti delle ASL nel Lazio, e quello che ne è venuto fuori è stato questo, con la conseguenza che il governo ha commissariato la sanità nel Lazio, per cui le decisioni, le scelte in materia sanitaria sono state necessariamente condivise con il governo, che ha imposto tagli pesanti per rientrare nel debito, in questo debito vertiginoso. Ebbene, il debito è stato integralmente coperto, i tagli purtroppo sono quelli che conosciamo, con il blocco dell'assunzione, la necessità per molti reparti di operare in gravissima carenza d'organico, per cui tutte le cose che sono state fatte finora sono state fatte ottenendo deroghe al blocco dell'assunzione. Anche Sonagni, ricorderete, una delle prime risposte che la giunta diede, appunto la deroga per alcune assunzioni per poter far funzionare i servizi che la popolazione richiedeva. Ebbene, è chiaro che insomma c'è ancora moltissimo da fare, che la sanità sconta problemi gravissimi, dalle liste d'attesa, dalle inefficienze che ancora viviamo. Però ecco, in questi 5 anni, nonostante queste grandissime difficoltà, bisogna dare atto che tante cose sono cambiate, tante cose sono state fatte. Tra giorni si aspetta la disponibilità del capo dello Stato, del presidente Napolitano, tra giorni ci sarà l'inaugurazione del nuovo ospedale di Frosinone, che non è l'ospedale della città di Frosinone, sarà il DEA di secondo livello, sarà l'ospedale di altissima specializzazione. DEA ce ne sono due nel Basso Lazio, una a Latina e una a Frosinone, sono ospedali di altissima specializzazione in grado di dare risposte di qualità, di eccellenza al diritto alla salute dei cittadini della provincia di Frosinone. Cassino, che è entrato in funzione con questa giunta, sarà DEA di primo livello. A Sora abbiamo inaugurato qualche giorno fa il reparto di rianimazione di terapia intensiva, e quella struttura si va specializzando come polo oncologico. Voglio dire, insomma, questa provincia è passata dai 13 ospedali fotocopia che facevano tutto, un po' di tutto e alla fine poco bene, e quel poco bene grazie alla professionalità di alcuni piuttosto che all'organizzazione sanitaria in sé, si sta evolvendo come una realtà con poche strutture ospedaliere di alta specializzazione, complementari tra di loro, e con una sanità che sta diventando effettivamente una sanità d'eccellenza. Molti passi ancora devono essere fatti, però insomma va dato atto a chi ha trovato il disastro di aver invertito una nuova tendenza. C'è una ulteriore prospettiva positiva. Nell'ultima conferenza Stato-Regioni per il riparto del fondo sanitario sono stati adottati criteri, finalmente, e la Regione Lazio in questo è stata protagonista insieme ad altre regioni, nel far passare finalmente criteri più giusti e oggettivi, in ragione dei quali la Regione Lazio avrà per il prossimo anno più di 315 milioni di euro per la propria spesa sanitaria. Questo ovviamente è una buona notizia, perché avremo 315 milioni di euro in più per organizzare la nostra sanità pubblica. Però porta con sé una considerazione, è che negli anni passati, in virtù di criteri evidentemente non giusti e non oggettivi, la Regione ha dovuto operare non soltanto con le grandi difficoltà di cui ho detto, ma anche con 315 milioni in meno rispetto a quelli cui avrebbe avuto diritto. Ecco, insomma, io credo che il bilancio, considerate tutte queste questioni, possa essere sostanzialmente positivo, ancorché non pienamente soddisfacente. La multiservizi, anche qui è una vicenda dolorosa, perché è chiaro, i dipendenti sono giustificati nella loro esasperazione. Si tratta, nella massima parte, di lavoratori di pubblica utilità, di chi stava meglio quando stava peggio, nel senso che erano lavoratori di pubblica utilità, in questo caso della provincia, addetti a quei servizi, e che avevano la garanzia comunque di provvidenze. Noi, applicando quello che la legge impone e utilizzando uno strumento che è nato per questo, la multiservizi, è nato peraltro con la giunta regionale Storace, è stata costituita, quindi dalla Regione Lazio, che l'ha costituita con una società che era nata appositamente, si chiamava Lazio Lavoro, cioè socio del 49% della multiservizi. Inizialmente era Lazio Lavoro, oggi è Sviluppo Lazio, perché Lazio Lavoro è stata incorporata dall'opera di razionalizzazione e semplificazione della miriade di società che Storace aveva fatto. Marrazzo, la giunta centro-sinistra, l'ha ridotte, e Lazio Lavoro è stata incorporata da Sviluppo Lazio. Quindi oggi socio della multiservizio al 49% è Sviluppo Lazio, ma inizialmente era Lazio Lavoro, cioè una società della Regione Lazio che aveva la funzione di stabilizzare i lavoratori di pubblica utilità. E la multiservizio è nata come società, appunto, che aveva questa funzione: avere dalle amministrazioni pubbliche, che si servivano i lavoratori di pubblica utilità, la commessa dei servizi in cui impegnavano i lavoratori di pubblica utilità per poterli svolgere in maniera imprenditoriale ed assumere stabilmente il personale, i lavoratori di pubblica utilità fino allora impegnati. Questo è avvenuto. Questo è avvenuto in passato per i servizi, per i primi servizi che sono stati assegnati al multiservizi. Questo è avvenuto ancora oggi. Per cui i lavoratori della manutenzione, che erano detti la manutenzione delle strade, lavoratori di pubblica utilità o lavoratori precari, sono stati assunti a tempo indeterminato dalla multiservizi, che ha avuto dalla provincia la commessa a svolgere questi servizi. Il fatto è che nuova amministrazione centrodestra ha bloccato tutto, ha sospeso questo affidamento, ha di fatto fatto mettere in cassa integrazione più di 80 persone, quindi che si trovano a non essere più lavoratori di pubblica utilità, quindi aver perso quella condizione, e ad essere in cassa integrazione a rischio licenziamento, perché la regione della provincia di Frosinone non si comprende bene cosa voglia fare, se affidare questi stessi servizi ad altri, non si capisce perché ha determinato questa situazione che diventa ingovernabile anche tra di loro, perché poi Iannarilli ha provato a portare in consiglio provinciale la delibera di annullamento dell'affidamento di questi servizi e il consiglio provinciale l'ha bloccata. Quindi siamo in una condizione di assoluta incertezza, con 84 persone che hanno perso, che hanno a rischio la propria condizione personale e di lavoro per una scelta assolutamente incomprensibile all'attuale amministrazione provinciale. Allora, sono le 18:22 minuti primi, quanto tempo abbiamo ancora? Siamo già quasi fuori tempo massimo, però abbiamo ancora una telefonata, allora andiamo subito a dare la linea alla redazione. Sì, devo dire che se c'era bisogno di un gradimento, bisogno di fare un sondaggio sul gradimento di Francesco Scalia, probabilmente lo abbiamo fatto in diretta, perché le telefonate sono tante e proseguono ad esserci ancora altre prenotazioni di domande all'assessore regionale Scalia. Pronto? Pronto? Sì. Eccomi, siamo in onda. Sì, buonasera. Buonasera Presidente Scalia, io sono un'elettrice del Partito Democratico, nonché una sua elettrice, ho assistito quasi tutti i suoi interventi anche tramite Nazareno Cottini e volevo chiederle, farle una domanda. Mi ricollego un po', dunque io lavoro nell'ambito sanitario anch'io, quindi non le nego che ho ancora presente, ben presente nella mente i danni lasciati dalla precedente giunta di destra, quindi dalla giunta Storace a livello sanitario e tutto ciò che ne è conseguito quando poi diciamo, siamo riusciti con Marrazzo a cercare di porre qualche rimedio e in prossimità delle prossime elezioni regionali sono seriamente preoccupata nel senso che questa cosa non si possa ripetere, quindi che la regione possa rifinire nuovamente nelle mani della destra e Dio ci salvi se così sarà. Quindi chiedevo a lei quali sono le previsioni per il Partito Democratico per far sì che questa cosa possa non riverificarsi, cioè quali sono le cose che si stanno adottando, quali sono i provvedimenti, cosa prevede lei di poter fare, oltre augurarsi insomma che gli elettori facciano il loro decorso, quindi anche qualche tutto ciò che insomma che lei prevede in visione di queste nuove elezioni, in che modo possiamo impedire che questa cosa accada. Bene, grazie della telefonata. Evidentemente Francesco Scalia scuote proprio il ventre del Partito Democratico e soprattutto dà voce alle preoccupazioni degli elettori, di quelli che evidentemente hanno più a cuore le vicende politiche locali. Ecco, prima di sì, passare prego, la linea a Francesco, vorrei appunto dire questo, fare una proposta. Ecco, se ci saranno altre telefonate, siccome Francesco insomma non ha molto altro tempo a disposizione, noi possiamo raccoglierle, eventualmente se Francesco vuole noi queste domande le possiamo inviare alla tua segreteria e poi naturalmente avere una risposta direttamente da te, oppure anche risentirci per telefono, così possiamo appunto soddisfare le esigenze dei nostri. Vogliamo provare a chiudere con questa ultima domanda, vediamo se dalla redazione ci fanno cenno di eventualmente andare in diretta. Possiamo andare in diretta? Prego. Forse il collegamento in questo momento non è possibile, proseguiamo, poi se recuperiamo la telefonata senza... Ecco Francesco, prego, risposta Francesco. Alla tua domanda. Ma ovviamente spero anch'io che non vinca il centrodestra, perché io, insomma, i cittadini dovrebbero fare il raffronto tra i cinque anni del governo Storace, perché il centrodestra ha governato questa regione, non è che si presenta per la prima volta dopo qualche decennio di opposizione, e quindi ha governato fino a quasi cinque anni fa, insomma, con i risultati che in parte ricordavamo per la sanità e non solo, gli scandali, la formazione, miliardi bruciate in mala gestione che hanno costato anche arresti, condanne, la richiesta d'arresto del vecchio assessore alla formazione, che insomma attualmente è parlamentare, insomma tutto quello che questa regione ha vissuto, oltre all'assenza totale anche in questa provincia di risultati. Insomma, io spesso invito gli interlocutori a dirmi una cosa fatta dalla giunta Storace in questa provincia in cinque anni di governo regionale, una, non due o tre, me ne indicassero una e la risposta non arriva. Insomma, centrosinistra, anche stando alle cose più evidenti, dalla superstrada Sora Ferentino che si sta completando, dal casello che si è inaugurato, all'ospedale di cui parlavo prima, all'ospedale di Cassino, insomma, anche stando alle cose come dire, più evidenti, di risposte ne ha date tante. Il giudizio è positivo, lo dicevo prima, insomma, il giudizio, così come è rilevato dai sondaggi, è positivo sull'operato della giunta regionale, molto positivo. Siamo oltre il 60%, al 61% di gradimento da parte dei cittadini della Regione Lazio e quindi dei probabili prossimi elettori. Il problema è trasformare questo consenso, questo giudizio positivo in voto. Non sempre l'operazione è automatica. Il centrodestra ha un candidato sicuramente molto... insomma, candidato forte che si presenta bene, anche con un'immagine costruita dalla partecipazione ormai da mesi, da anni, trasmissioni televisive che si accreditano vicine a noi, tipo Anno Zero, tipo soprattutto Ballarò. A me sembra un personaggio molto più costruito che altro, perché di risposte finora insomma, non ne ha date. È un personaggio molto televisivo, quindi che parla bene, che presenta bene i propri argomenti, con grandi relazioni, e quindi è un personaggio in grado di metterci in difficoltà. Noi dalla nostra abbiamo sicuramente la credibilità di chi ha ben operato, speriamo di avere, io confido che avremo un ottimo candidato se dovesse superare tutte le sue resistenze, Nicola Zingaretti. Io già mi sono espresso pubblicamente per la sua candidatura, è un ottimo candidato che unisce alla capacità dialettica, come dire, telegenica della Polverini l'esperienza di chi ha governato e di chi risposta al territorio ha già dato ed è in grado di tenere insieme una coalizione che va davvero dall'UDC alla Sinistra Libertà, un nuovo centrosinistra che va dall'UDC a Sinistra Libertà. Se questo avverrà, cioè, io credo non ci saranno pochi dubbi sulla nostra riconferma in regione. Insomma, Nicola Zingaretti come candidato di una coalizione che va dall'UDC a Sinistra Libertà credo non avrebbe rivali. Ma anche se questo non dovesse avvenire, insomma, io credo che dovremmo affermarci per la forza delle nostre ragioni più che per immagini, emblemi, vessilli che dovremmo, insomma, che il centrodestra ama inalberare in campagna elettorale. Faccio un riferimento molto locale, non me ne voglia, ma io in quattro anni e mezzo di Fiorito non si è sentito parlare, quantomeno a livello provinciale, no? In regione, per quel che l'ho frequentata io, insomma, credo che sia, non credo, statisticamente il consigliere più assente, ma insomma, indipendentemente da questo, si è occupato molto da Nagni, nel bene o nel male non lo so e non giudico, però non ha avuto una grossa presenza sul dibattito, sui temi di carattere provinciale. E da qualche tempo a questa parte, da qualche giorno a questa parte, è ritornato sui giornali, manifesti, grandi striscioni. Ecco, il centro-est è molto abile in questo, nei sei mesi, nei cinque mesi prima della campagna elettorale, nella sua presenza, nella sua capacità mediatica, nella sua capacità di suscitare emozioni, gli va riconosciuto. Però poi sui problemi quotidiani, sulle risposte ai problemi quotidiani non c'è. Non c'è nella nuova giunta provinciale, se lo dicono tra di loro. La ricordate la loro campagna elettorale? Straordinaria. Insomma, grande dispiego di mezzi, emozioni suscitate, non più non posso. Poi la campagna elettorale finisce, inizia il governo quotidiano, iniziano le risposte da dare quotidianamente ai problemi della gente, del territorio, e lì non ci sono. Ecco, dovremmo invitare i cittadini a riflettere, non scegliamo un cantante, non scegliamo un'emozione, scegliamo il governo del nostro territorio. Quindi con questa consapevolezza credo che si debbano avvicinare la scelta chi li deve governare. Su questo su questo non c'è partita, lo abbiamo dimostrato in passato e sicuramente lo dimostreremo anche in futuro. Allora, abbiamo un'ultima telefonata, quindi prima dei saluti consentimi la battuta, Francesco. Quindi anno zero e Ballarò, che secondo Berlusconi fa vincere il centrodestra, oltretutto a quanto pare, passami la battuta, crea anche i candidati a presidente per il centrodestra, perché la Polverini, come dicevamo, è ospite di Corradino Mineo, ospite di Anno Zero e di Ballarò, ospite fissa praticamente. Sì, tra l'altro come rappresentante sindacale sempre, come rappresentante sindacale. Bene, allora evidentemente Berlusconi ha ragione, insomma, questi programmi oltre a farlo vincere gli trovano anche i candidati giusti. Allora abbiamo l'ultima telefonata. L'ultima telefonata, poi chiaramente chiudiamo le linee telefoniche, ovviamente. Sì. Pronto? Sì, buonasera. Allora, io ho appena compiuto 18 anni e quindi ammasso voterò per la scuola. Scusami, non ti sentiamo bene, puoi parlare un pochino più forte? Sì, buonasera, mi sentite? Prego, ti sentiamo. Allora, ho appena compiuto 18 anni, quindi adesso ammasso voterò per la prima volta le regionali. Vorrei sapere quindi il motivo per cui noi giovani in generale dovremmo votare per il centro-sinistra. Grazie. Allora, se ho ben capito, era un'elettrice che diceva di aver votato Fiorito? Non ho capito. Qui abbiamo evocato il fantasma di Fiorito, evidentemente io sento anche le ascoltatrici che mi parlano di lui. Prego, Francesco. Ma credo di averlo detto, in sostanza. Si vota anche, non, ovviamente si vota per ciò che si prospetta, per i programmi che una coalizione prospetta, ma si deve votare credo anche per quel che chi si presenta ha fatto, perché quello dà la credibilità poi che possa fare le cose che si impegna a fare. Ecco, noi veniamo, centrosinistra viene da 10 anni di governo della provincia e credo che non dovremmo essere noi a dirlo, perché è chiaro il nostro giudizio è di parte, però insomma il confronto tra il nostro operato e i primi 6 mesi della giunta Iannarilli credo che facciano giustizia di tante cose dette in campagna elettorale. Uno degli esempi che facevo prima credo che sia emblematico: noi abbiamo costruito in 16 mesi una scuola bellissima da 1200 alunni, loro non sono riusciti in 6 mesi a fare il trasferimento, insomma a fare le pratiche burocratiche per portarci gli alunni, insomma, da dove stanno oggi in quella scuola. E per quanto riguarda la regione, i risultati di 5 anni di governo regionale, anche questi sono sotto gli occhi di tutti, insomma sono tangibili e credo che meritino la riconferma al governo della regione per questa coalizione, anche perché aveva ed ha un programma di a lungo termine. Marrazzo, ricorderete, parlava di Lazio 2015, c'è un programma di cambio, di crescita della regione Lazio che a quel traguardo del 2015 credo che sia giusto, ovvio il nostro giudizio di parte, ma insomma lasciatemelo dire, credo sia giusto consentire a chi ha avviato questo progetto di portarlo a compimento con nuovi 5 anni di governo regionale. Bene Francesco, allora ci fermiamo qui, non perché non ci, come dire, non avremmo avuto altri spunti di discussione, altre domande e probabilmente altre telefonate, ma il tempo che è tiranno, tu hai altri impegni. Consentitemi di farti gli auguri, ti auguro un buon anno, ti faccio un grosso in bocca al lupo, scusateci. Auguri a voi e ai vostri radioascoltatori, auguri di un anno che sia davvero più sereno per tutti, soprattutto per coloro che hanno vissuto gli effetti più duri della crisi che ha investito ovviamente non solo la nostra provincia, ma il mondo intero, il nostro paese, che è stata vissuta in maniera ovviamente drammatica da chi a causa di questa crisi ha perso il proprio lavoro o in cassa integrazione, mobilità. L'augurio che quest'anno, nuovo anno, possa essere più sereno, soprattutto per loro. Beh, stavo dicendo scusateci a tutti quegli ascoltatori che magari avrebbero voluto fare altre domande, ma noi ci fermiamo qui con questo incontro. Giuseppe, volevi anche tu fare qualche saluto? Non so, comunichiamo anche, continuiamo la diretta, vero? Sì, ecco, appunto. Perfetto. Io volevo continuiamo diretta anche perché abbiamo degli ospiti qui in studio. Sì, continuiamo la nostra diretta passando appunto a Radio Ernica e naturalmente qui manderemo in replica questo nostro incontro con Francesco Scalia sul nostro sito e anche in radio nella giornata di domani. Bene, allora chi ci ascolta per radio, soltanto un attimo di pausa per consentire di preparare il tutto per il dopo, quindi pausa, pubblicità e ci sentiamo tra poco. Da assumere prima, dopo i pasti, nei momenti di relax, praticamente sempre. Non ha controindicazioni, anche in forti dosi. Radio Ernica, telefono 0775 72 65 46 oppure 333 44 74 358. I tuoi figli meritano scelte mirate che li preparino adeguatamente al futuro. La scelta educativa e scolastica diventa quindi importante. La scuola elementare annessa al convitto offre alle famiglie molte opportunità. Sicurezza ed assistenza. Se scegli la nostra scuola, dai la possibilità ai tuoi figli di frequentare dalle 8 alle 18 una scuola dotata di assistenza qualificata, di un servizio mensa e di una attrezzata ed efficiente infermeria. Approfondimento. Il progetto educativo si attua nel contesto scolastico e del semiconvitto, con il quale la nostra scuola mette a disposizione esperti educatori per seguire gli alunni negli studi, assisterli e soprattutto ascoltare le loro problematiche. La possibilità di progetti mirati consente di valorizzare al meglio le potenzialità, le capacità e le attitudini dei bambini per indirizzarli e prepararli meglio alla scuola secondaria e agli studi superiori. Tempo libero. Conosciamo tutti la difficoltà delle famiglie di seguire i propri figli nelle attività ricreative a causa di problemi lavorativi di vario genere. Nel nostro convitto con scuola elementare annessa è possibile indirizzare e formare i bambini anche attraverso la promozione mirata di attività ricreative e con attività specifiche quali corsi di alfabetizzazione informatica. Tutto questo è possibile se scegli la scuola elementare annessa al convitto. Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, Piazza Ruggero Bonchi. Contattaci allo 0775 727007 o 726701.